Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci, inizio di settimana, Luca Tremolada, Luca Dello Iacolo. Siamo ancora qui, 16:33 minuti. Oggi puntata dedicata al fuoco, all'energia, alle esplosioni, no? No, soprattutto è dedicata all'idrogeno e quindi all'idrogeno poi come diciamo fonte e soprattutto un vettore di energia pulita. Esatto, noi continuiamo un filone a raccontare spin-off, a raccontare nuove aziende, start-up, insomma cerchiamo di capire su che cosa stanno lavorando. Uno di questi argomenti, topics, issues, come si suol dire, è l'idrogeno. Non è non solo in Italia, ma un po' in tutto il mondo si sta cercando di quadrare la cerchia, come si suol dire. Tanti progetti che stanno partendo. Tanti progetti che finiscono, alcuni sopravvivono, alcuni si bloccano per problemi di passaggi di tecnologia o per la mancanza di una soluzione efficiente, ossia che consenta una produzione efficiente di energia senza rischi. Insomma, andremo a capire un po' che cosa si muove in Italia intorno all'idrogeno. Lo faremo raccontando in particolare due aziende, due spin-off, se non sbaglio. Sì, sono due spin-off. Ma prima le news. Facebook è la meta più visitata di internet. Il social network guida la classifica dei 1000 siti web più visti al mondo. Seguono sul podio i portali di Yahoo e Microsoft. Tra i primi 10 emergono due nomi cinesi. Sono un motore di ricerca e un social network. L'enciclopedia Wikipedia raggiunge il quarto posto. Dalla lista sono esclusi Google e il portale di video YouTube. Tablet e computer a basso costo per le nazioni emergenti. A lanciare la sfida è Nicolas Negroponte, guru dell'informatica e docente all'MIT di Boston. L'idea è di puntare sugli schemi touchscreen, più intuitivi rispetto alle tecnologie tradizionali e adatti a persone meno istruite. I primi modelli saranno pronti entro l'anno. Passiamo alle scienze. Le ali di farfalla ispirano tecnologie anticontraffazione per le banconote. I ricercatori dell'Università di Cambridge hanno riprodotto in laboratorio una pellicola attraverso le nanotecnologie. Al microscopio elettronico la struttura è simile a contenitori per il trasporto delle uova. I colori derivano dai pigmenti naturali e dai riflessi di luce durante il volo degli insetti. È un risultato che ha applicazioni sulla sicurezza delle tecnologie di stampa. Ma un po' per snobismo, cioè non abbiamo voluto né tornare sul merito di Facebook e la privacy, né tornare sull'iPad che oggi, almeno le ultime agenzie, hanno battuto insomma 2 milioni di tablet venduti. Siccome siamo un po' snob, abbiamo deciso di parlare di tablet a basso costo per le nazioni emergenti e di Facebook, ma in una chiave che non fosse quella privacy, dati sensibili, eccetera. Una scelta così, nel senso, non volevamo tornare sugli argomenti mainstream cosiddetti. Sì, anche perché poi appunto li possiamo approfondire adesso, anche perché per quanto riguarda la privacy ci sono nuove impostazioni che si stanno che gli utenti possono vedere in alcune parti del mondo e pian piano poi si stanno diffondendo, nuove impostazioni che permettono una gestione più semplice della privacy su Facebook e quindi permettono poi di scegliere in un modo più semplice quali sono le informazioni condivise con gli amici degli amici all'interno del social network. Vedi, Luca comunque è più forte di noi, cioè nel senso, stavo dicendo no, non le trattiamo questa volta, ci teniamo all'esterno, poi basta un attimo e si cade dentro come due polli siamo. Allora invece passiamo un po' all'issues, all'argomento principale di questa puntata. Siamo in collegamento con Paolo Fracas, amministratore delegato di Genport. Buongiorno. Buongiorno a tutti e ai radioascoltatori. Non abbiamo sbagliato accenti questa volta, no? No, perfetto. Tutto a posto, Genport, perfetto. Alla grande, allora, visto che è tutto a posto, partiamo con la scheda su Genport. Un generatore ecologico e portatile. A partire da idrogeno e ossigeno fornisce corrente continua. È il risultato degli studi di Genport, un'azienda spin-off del Politecnico di Milano. Il cuore della tecnologia è nelle celle a combustibile e in batterie litio-ioni ad alta densità. Fondata un anno fa, Genport ha ottenuto 4 brevetti internazionali e offre un'ampia gamma di applicazioni progettate per esigenze diverse: operazioni di soccorso, nautica, telecomunicazioni e sanità. Può diventare un caricabatterie, un'unità ausiliaria di potenza o un gruppo di continuità, tanto che due generatori sono stati donati durante l'emergenza del terremoto in Abruzzo. Allora, noi abbiamo visto anche le foto sul sito di questo generatore ecologico e portatile, perché è un prodotto a tutti gli effetti. Sì, a tutti gli effetti è un prodotto che siamo in corso di testing, siamo nella cosiddetta fase di beta testing, cioè stiamo dando in mano ai primi utilizzatori per verificarne la rispondenza a quelli requisiti di progetto. E la prima versione è alimentata, come giustamente dicevate voi nella presentazione, con sistemi idrurimetallici, cioè spugne porose metalliche che trattengono al loro interno una quantità importante di idrogeno. Attualmente stiamo lavorando alla cosiddetta quarta generazione, dove il sistema sarà alimentato a un combustibile idrogeno solido di nostra concezione. Ed è questo il brevetto, è uno dei brevetti internazionali che avete? E questo è uno dei principali brevetti che abbiamo sviluppato insieme al centro di ricerca di Roma, Enea Casaccia. Si tratta di un combustibile di nuova concezione basato su idruri chimici e additivato opportunamente per rendere sicuro, inerte il combustibile nella fase di trasporto, impatto zero durante l'utilizzo e in grado di generare la quantità di energia necessaria per alimentare fino a 300 watt. Ma è reperibile questa fonte di alimentazione? È costosa? Qual è, insomma, la difficoltà tecnologica del portare una simile tecnologia? Sì. Allora, noi diciamo che costruiamo la cella a combustibile, come dice il termine, intorno al combustibile, quindi la nostra principale preoccupazione è stata dalle origini a concepire un mezzo di accumulo che fosse aderente a quelli che furono i requisiti dell'applicazione, cioè che contenga tanta energia in poco spazio e volume, che sia sufficientemente sicura nel trasporto, magari anche aereo in futuro, e che consenta un utilizzo in modo tale da produrre la quantità di idrogeno sufficiente a produrre appunto l'energia richiesta dal nostro generatore. Sì, il combustibile di base è un composto utilizzato addirittura nell'industria alimentare e nell'industria farmaceutica. Che noi e quanto consuma la cella a combustibile diciamo una giornata di alimentazione? Allora, la cartuccia è stata progettata per generare, noi parliamo in termini di wattora, generare in circa 1500 wattora, ovvero fornire per 5 ore l'energia necessaria pari a una potenza di 300 watt. Per intenderci, 1500 wattora sono anche il quantitativo di energia generalmente utilizzato per alimentare gli ausiliari di bordo di una barca da diporto in una navigazione mediterranea. E l'obiettivo è realizzare un sistema cartuccia che abbia il peso poco più di un chilo e l'ingombro di una equivalente a una bottiglia, diciamo, d'acqua da circa un litro e mezzo. Torniamo un attimo alla miscela, che mi sembra che sia il segreto vero, insomma, quello su cui state lavorando, perché poi di celle a combustibile, insomma, è già da un po' di anni che si parla. Nessuno ha raggiunto un livello di efficienza tale da scalfire poi l'antica batteria litio-ioni, o sbaglio? Dunque, in realtà la tecnologia delle celle combustibili si sposa benissimo con quella delle batterie. Pensare che siano in concorrenza, diciamo. Da un punto di vista industriale, allora, sì, però non da un punto di vista scientifico, però industriale sì, sono un'alternativa all'altra, o sbaglio? Allora, le spiego, noi le mettiamo insieme con l'obiettivo di prendere da entrambe quello che c'è di meglio. Mi spiego più chiaramente. Le batterie sono un ottimo sistema di accumulo di energia, arrivano oggi le più prestanti a litio-ioni fino a 180-200 wattora al chilo, però hanno il limite dell'autonomia, possono arrivare a qualche ora e di potenza. La cella combustibile è un ottimo generatore di altissima efficienza, un generatore elettrochimico, quindi simile alla batteria, ma con autonomia che dipende dal combustibile. Ed è un dispositivo che, se gestito bene, quindi fatto funzionare a un potenza costante come un motore a combustione interna, per intenderci, dà il meglio di sé. Allora, combinando la tecnologia delle batterie, in particolare litio-ioni, e un generatore, si riesce a far fronte a carichi, diciamo, variabili, e quindi far funzionare la cella nel modo migliore possibile e garantire quell'autonomia che una batteria come sistema di accumulo non sarebbe in grado. Quindi avete messo insieme il meglio delle due, anche perché, esatto, se non sbaglio, erano i giapponesi a tenere un po' il pallino delle celle combustibili a idrogeno per i portatili. Insomma, un po' di anni fa c'erano questi annunci a bomba, inventato il portatile a celle combustibile con l'idrogeno, con la peretta, si spingeva dentro il liquido, poi non si è fatto mai nulla, sono sempre restati solo dei prototipi. E in realtà si sta facendo tantissimo nei laboratori di Samsung. E perché adesso è decollato? Ma dunque, in realtà è un problema tuttora di costo. Ne vedrete i primi prototipi di questi dispositivi nei prossimi mesi o nei primissimi momenti dell'anno successivo, nel 2011. I dati che ho in mano di mercato mi dicono di una domanda che in questo momento sta letteralmente aumentando per quanto riguarda le unità di celle combustibile. Si parlava nel mondo di questi dispositivi portatili di circa 11.000 unità messe nel mercato nel 2009, quest'anno si stima una domanda di mercato intorno ai 150.000 unità, che sempre è una micro nicchia. È un problema quindi di costo fondamentalmente, certo. È un problema anche ovviamente di qualche problema di tecnologia da mettere a punto. Poi caso per caso bisognerebbe discutere. Il 300 watt ha delle problematiche che sono diverse da quelle di un... Ecco, non entriamo troppo nei tecnicismi. Una risposta al volo a una domanda di Alessandro da Senigallia: ma che fine aveva fatto il precedente progetto a basso costo di Negroponte del MIT? Soldi buttati? Beh, in realtà no. C'è lotta con noi il portatile di Negroponte, cioè, però continua ad essere utilizzato in alcune nazioni, però non è decollato così come si pensava, soprattutto poi il posto è stato preso dai netbook che adesso stanno comunque crescendo, li stanno anche vendendo. Quindi l'industria ha fregato il bel gesto di Negroponte in questo caso. L'ha proseguito. Nova Lab 24. 16:46 minuti, Luca Tremolada, Luca Dello Jacopo. Andiamo in Sardegna, ma solo per un secondo. Abbiamo in collegamento Gabriele Mulas, che è cofondatore di Idrogenera. Ho sbagliato. Buongiorno agli ascoltatori. L'accento dove sta? L'accento si può spostare. Il progetto è nato come l'accento variabile. Idrogenera, poi strada facendo il nome della società si è trasformato in un Hydrogen Era, che sa un po' più di futuristico e di possibilista in relazione al futuro che ci aspetta. Quindi c'era il trucco, cioè non è sempre colpa mia. Allora sentiamo la scheda di Luca Dello Jacopo, poi torniamo con Idrogen Era a questo punto. Acqua e alluminio per produrre idrogeno. È un processo poco costoso che genera come materiali secondari alluminati e allumina. La scommessa arriva dalla Sardegna con Idrogenera, uno spin-off dell'Università di Sassari. Sono tre ricercatori, soci fondatori dell'azienda. L'obiettivo è di costruire una tecnologia per ricavare idrogeno in modo sostenibile. Anche l'alluminio da impiegare nel processo può essere riciclato. Il procedimento allo studio deriva da applicazioni industriali, ma è adattabile a dimensioni ridotte e permette di tagliare i costi di produzione. Allora, proviamo a fare un passo indietro, proviamo a capire un attimino che tipo di... Voi siete un'azienda a questo punto? Noi siamo un'azienda che si è costituita alcuni mesi fa e siamo nati come passo successivo alla partecipazione al Premio Nazionale dell'Innovazione del 2008. Ed è stato facile riuscire a costruire un'azienda? No, è difficilissimo, ma ci stiamo provando e siamo fiduciosi passo passo di riuscire ad arrivarci e di trasformarci in un'azienda vera e propria. Ecco perché, cioè, insomma, siamo partiti con un passo indietro sia io che Luca Dello Jacopo, perché alle volte non viene raccontato questo aspetto degli spin-off, cioè la difficoltà poi a provare a rendere in una chiave imprenditoriale la ricerca. Esatto, questo, in questo senso siamo stati stimolati dalla, dalla partecipazione al, alla Start Cup e al Premio Nazionale dell'Innovazione, quando ci è stato chiesto, ma insomma l'attività di ricerca di base che svolgete presso l'università, quali ricadute può avere sul territorio, quali, a che cosa può portare un'attività di ricerca di base in un settore potenzialmente con tante applicazioni come quello dell'idrogeno. Tengo a precisare, perché vi siete orientati proprio all'idrogeno? È un settore del quale in termini di attività di ricerca mi occupo da diversi anni e che negli ultimi anni ha vede la, la, la partecipazione all'attività di tante di tanti studiosi nel mondo nel settore della scienza dei materiali e con applicazioni. Ecco, torniamo a quello che stava raccontandoci, cioè grazie a questo al concorso, insomma, vi è stato chiesto appunto le ricadute sul territorio e allora in accordo e in compartecipazione con l'ufficio di trasferimento tecnologico dell'università abbiamo partecipato alla Start Cup e con un buon successo alla Start Cup della Regione Sardegna e poi questo ha avuto come conseguenza la partecipazione al Premio Nazionale dell'Innovazione, durante il quale ci sono stati degli apprezzamenti per questa idea e da lì il passo è stato nella il passo successivo è stato la costituzione di una società. Ci sono tanti step intermedi che vanno dalla... Apprezzamento vuol dire soldi? Apprezzamento al Premio Nazionale Innovazione? Immediatamente no, siamo arrivati quinti, è un premio per Business Idea e per Business Plan. Il quinto posto non ci ha fruttato soldini veri e propri, ma ci ha fruttato contatti con investitori e con... è un po' di visibilità, diciamo così. Quindi serve, nel senso, in questo momento l'università da sola non basta, cioè servono anche questi momenti di vetrina, viene da dire. Senz'altro, il giudizio su questa parte nostra, il giudizio su queste attività, in particolare sulla startup, è assolutamente positivo e può permettere a chi svolge attività di ricerca dentro l'università di rivolgere un occhio attento a quelle che possono essere le applicazioni della propria attività di ricerca verso la trasformazione, verso la presentazione, la preparazione di un prodotto che può portare alla nascita di un'azienda. Ecco, questo per senso... fare il business plan avete avuto un aiuto o una consulenza? La startup che in questi giorni sta partendo in tutte le regioni d'Italia e che è il primo passo del Premio Nazionale dell'Innovazione, prevede in particolare in Sardegna prevede l'affiancamento per i progetti che vengono riconosciuti più interessanti da parte di una commissione, prevede l'affiancamento da degli esperti economisti che possono darvi una mano, che aiutano lo sviluppo di un business plan. Di solito appunto affiancano persone che hanno una visione più orientata verso attività di ricerca con meno applicazioni, con meno aspetti economici, diciamo. Mulas, una risposta super rapida perché abbiamo finito il nostro tempo, sono una manciata di secondi. A questo punto che cosa vi aspettate, nel senso che a che punto siete, quando è che vedremo un prodotto o qualche cosa? Spero presto, noi in questo momento non siamo presenti sul mercato, ma siamo in una fase di testing di alcuni prototipi e di sviluppo di prototipi che speriamo presto possano fare l'ultimo passo e arrivare sul mercato. Quindi noi segnaliamo la Idrogenera, la segnaliamo a tutti i ricercatori che stanno lavorando in questo campo, se si vogliono mettere in contatto, il Twitter di Nova Lab 24, la posta elettronica Nova Lab 24 at radio24.it e poi abbiamo il Twitter e poi proviamo anche a fare un po' le piattaforme. E Facebook, non hai sentito. Va bene, a domani alle 16.30. Nova Lab 24. Nova Lab 24.